Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Anche i cassor francesi, come i disobbedienti italiani, quando fanno la spesa proletaria, preferiscono i prodotti di lusso. Per chi non avesse capito, c'è il simbolo eloquente piccone, vanga e pugno chiuso. Al di là dei giochi di parole, azione concreta, catechizza robustamente il logo. Se a Torino i sei incursori che si sono regalati una serata al cambio si sono limitati a un'ortodossa contestazione, se ad Atene il comando antiricchi ha sfasciato un po' di vetrine nel quartiere del lusso, a Parigi il nuovo partito anticapitalista non si accontenta di trovare un bersaglio esemplare, ma cerca proseliti tra la gente comune. Dopo alcune esperienze stuzzicanti, annuncia il manifesto, siete invitati a un nuovo spiluccamento, perché non dobbiamo essere noi a pagare la loro crisi. L'operazione avrà luogo il sabato. L'orario è indicato con tre puntini per ragioni di discrezione e il segreto sarà conservato fino al mattino del picnic. Seguono indicazioni precise agli aspiranti rivoluzionari del weekend. Due numeri di cellulare dove vi sarà comunicato il punto di riunione sabato al mattino molto presto. Dobbiamo dunque cercare Leila. Di lei possediamo anche la relativa mail preziosa. Non si sa mai i telefonini. Ci consola l'annuncio che il supermercato è sistemato vicino a una fermata del metrò. Più comodo di così. Finale in gloria. Venite a celebrare la grande redistribuzione della grande redistribuzione. E giù tre punti esclamativi. Che aprono la strada a una citazione dell'articolo 1587 del Codice Civile. Per quanto riguarda vino, olio e altre cose che è in uso assaggiare prima di comprare, non c'è acquisto fino a quando il compratore non li ha assaggiati e apprezzati. Eccoci qua. Leila si è data da fare. C'è folla davanti al Carrefour, quartiere scicchino. Siamo tutti invitati al nuovo gesto rivoluzionario, allo sberleffo contro la società del lusso, della cospirazione dei profittatori, che diventano sempre più obesi mentre la crisi dilaga. Già, Robin Hood in Francia ha scoperto che è arrivato il momento di uscire dalla foresta e di passare al supermercato. Eretto a simbolo della società anti-egualitaria e sprecona, crocevia simbolo delle baraonde scialacquative perpetrate alle spalle di quelli che una volta si chiamavano poveri, e che qui, lo provano le statistiche, sarebbero almeno 8 milioni. Hugo, dunque, troverebbe motivi di scrivere con raddoppiato calore e furore poderose continuazioni de I Miserabili. Se il motto è individuare e distribuire le ricchezze dove si trovano, non c'è niente di meglio per cominciare che il supermercato. Tutto è così ben allineato sugli scaffali. Ci prepariamo a partecipare all'aggiornamento necessario del casseur, l'assaltatore brutale e nichilista di negozi e magazzini, che in Francia è una presenza fissa di ogni manifestazione. È l'apporto teorico della nuova gauche, vitaminizzata dal carattere ventraiuolo di quella antica sinistra che si riconosce nella faccia simpatica di Olivier Besancenot, un Gavroche della moltitudine, che sarebbe quella dei sans-papiers, dei precari, dei declassati. L'unico vero nemico di quella di Sarkozy, l'amico degli spendaccioni, uno che promette di diventare il peggior incubo del presidente e che applica alla perfezione il detto di Bernstein, antico socialista. Lo scopo non è niente, il movimento è tutto. Allora, movimento. Cioè il picnic nei supermercati. Gli incanutiti rivoluzionari degli anni 70 storcono il naso. Ma l'abbiamo inventato noi. È il vecchio esproprio proletario, l'autoriduzione, vero? Ma le milizie del nuovo partito anticapitalista ci aggiungono qualcosa che in quei tempi rivoluzionariamente seriosissimi non c'era. Lo sberleffo, la provocazione di stampo futurista. Allora, tribolatori di supermercati, si va? Si va. Le avanguardie del picnic entrano con l'aria indifferente dei clienti disposti a riempire il carrello senza dare nell'occhio. Sono un centinaio almeno per essere certi di sovrastare numericamente la vigilanza. E il carrello lo riempiono davvero, e con gusto, svuotando gli scaffali costosi. Salmone, champagne, foie gras, ovvero la merenda quotidiana dei profittatori, dei pescecani. Non a caso, tra le vittime, c'è stato anche il lussuoso settore culinario delle Galerie Lafayette a Rennes. Poi alle casse, sempre tutti insieme. E qui il picnic diventa politica, dibattito, coscienza. Si annuncia alle cassiere esterrefatte e manifestamente in ritardo nella consapevolezza rivoluzionaria che non si paga, perché gli alimenti devono essere distribuiti a coloro che non hanno la possibilità di comprarli. E qualcuno comincia subito a stappare bottiglie e gustare terrine fragranti. Sì, ma perché champagne e salmone e non latte e patate? Perché i poveri non dovrebbero festeggiare come i ricchi? È la socratica risposta. Questo è un gesto di solidarietà che si compie collettivamente. Si proclama uscendo. E in quell'avverbio ci sarebbe la sottile distinzione che evita di farsi scallottare dal codice penale. Articolo riguardante la rapina. Si esce trascinando la spesa. In pochi minuti i carrelli si svuotano nelle sporte di quelli in attesa. I poveri. L'operazione è durata, come al solito, non meno di un'ora. Non c'è fretta. La polizia non si fa mai vedere. Eppure dovrebbe essere avvertita. Questi picnic sono iniziati lo scorso anno, nell'atmosfera delle feste. La maggioranza dei supermercati, per evitare che il picnic diventi guerriglia, preferisce tacere e non presentare denuncia. Un centro commerciale, addirittura, ha stipulato una convenzione con i focosi anticapitalisti. Unica condizione è che passino una volta al mese e concordino la lista della spesa. Il modello rischia di estendersi. Già spuntano picnic senza il conto al cinema e al ristorante. Al Weekends di Alain Ducasse sono in allarme. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Domenico Quirico tra i nuovi casseur alla guerra del lusso, dalla Stampa del 23 marzo. L'Alitalia è diventata CAI, ma i disagi sono sempre gli stessi, come racconta Marco Travaglio sulle pagine dell'Unità. Il 19 marzo, mentre a Fiumicino si presenta in pompa magna la Carta dei diritti del passeggero, ho la sventura di imbarcarmi sul Catania-Roma. Sventura perché, da quando c'è la CAI, non ho mai avuto il piacere di partire una volta in orario. Arrivo a Fontanarossa alle 11.20. L'aereo ha il solito ritardo di mezz'ora. Mi leggo i giornali? Impossibile. Spiacenti, oggi in aeroporto non sono arrivati. Il ritardo passa a un'ora, senza spiegazioni. Finalmente l'imbarco. Si parte? Ma che? Mezz'ora fermi sulla pista. Chiedo allo steward quando si decolla. Prossimamente. Seguono un paio di supercazzole su un cambio improvviso di aeromobile e su un passeggero in difficoltà. Torno al posto, bofonchiando compagnia di cialtroni. Quello mi insegue per sapere cosa ho detto. Ribadisco. Lui minaccia, non si sa con che diritto, di lasciarmi a terra. Poi scompare. Il cosiddetto aeromobile decolla con un'ora e mezza di ritardo e atterra a Fiumicino alle 14.30. 135 minuti di ritardo. Ovviamente in aperta campagna, così perdiamo un altro po' di tempo con la navetta. La signorina ci ringrazia di aver scelto Air One e si augura che torniamo presto a farci fregare. Sembra finita, ma la navetta non arriva. Sequestrati per 35 minuti nella totale afasia del personale. Intanto una decina di passeggeri perde varie coincidenze. Ci liberano alle 15.05, 4 ore dopo l'ingresso a Fontanarossa. Nelle stesse ore il presidente CAI, Roberto Colaninno, comunica che, in barba ai gufi, all'Italia va molto meglio di prima. Infatti mi è venuta una certa idea sul possibile uso della carta del passeggero. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco Travaglio, CAI, compagnia aerea incapaci, dall'Unità del 21 marzo. Sul Corriere Magazine, Chiara Mariani ricorda il collega Gianni Giansanti, il fotografo divenuto celebre per la foto del ritrovamento di Aldo Moro. Gianni Giansanti non c'è più. Romano, 52 anni, fotografo di fama internazionale, amico insostituibile. Ci piace ricordarlo com'era, prima che la malattia lo assalisse 3 anni fa con violenza inaudita, quando irrompeva in redazione con l'impeto e la sicurezza giustificati dalla sua fisicità, intelligenza, intuizione, talento e dalla sua etica inscalfibile. Rifuggiva dal pettegolezzo, Gianni, e questo lo sapevano bene tutti coloro che si offrivano consapevolmente al suo obiettivo. Giovanni Paolo II, Ayrton Senna, lo stilista Valentino, Jacques Villeneuve, Italo Calvino, Renzo Piano. 3 i World Press Photo vinti, e nel 1993 fu l'America a incoronarlo Photographer of the Year per il suo servizio sulla Somalia. Ci commuove pensare che la foto del ritrovamento di Aldo Moro la scattò all'età di 21 anni e che il libro che ritrae Wojtyla già pontefice in privato lo realizzò a 30. Santità, voi siete un mecenate, disse candidamente al pontefice più fotogenico e mediatico della storia. Con questi scoop volò lontano. E noi con lui. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Chiara Mariani, Il fotografo che volò lontano, dal Corriere Magazine del 26 marzo. Letture di Radio 24. Andrea Vitali, scrittore abituato a scalare le classifiche e a vincere premi, racconta la sua prima sconfitta ad un concorso letterario. Facevo la quinta elementare. La squadra di calcio di Lecco militava in Serie A. Con questo preciso ricordo non mi dovrebbe risultare difficile risalire all'anno. Ma non è questo che importa. Non è questo il punto. Facevo la quinta elementare, quindi ero in collegio presso i Salesiani, e si stava avvicinando la settimana degli esercizi spirituali. Si impongono alcune precisazioni prima di entrare nel succo della storia. Sul collegio, innanzitutto, a un tiro di schioppo da casa mia, e nel quale ero entrato per mia espressa volontà. Fu un anno solare che adesso gode certamente del beneficio di essere un ricordo di infanzia. Tuttavia, a parte qualche prevedibile momento di difficoltà, non posso che dirne bene. Del collegio come dei Salesiani, che lo reggevano con impagabile vitalità. Una seconda doverosa precisazione riguarda gli esercizi spirituali, una parentesi tra le normali attività quotidiane regalata alle necessità dello spirito. Niente scuola, quindi, e già questo fatto avrebbe riempito di gioia chiunque, insegnanti compresi, vorrei azzardare. Banditi anche i soliti giochi in omaggio alla regola che accompagnava la settimana di esercizi, cioè il silenzio. Niente pallone, niente palla guerra, o come altrimenti si chiamava quest'altro gioco che andava per la maggiore. Sconsigliato correre o parlare a voce troppo alta. Il quadro potrebbe indurre a pensare male. Tutt'altro. A fronte del rispetto delle regole c'era, nella mente dei Salesiani, la consapevolezza che il gioco c'era ancora indispensabile. Quindi sostituimmo quelli rumorosi, comprese le biglie, con le figurine dei calciatori le cui buste ci vennero offerte dalla direzione. L'insegnante di lettere della mia classe era un appassionato di calcio. Ricordo il suo racconto di un match di Coppa dei Campioni, Inter contro Real Madrid, che ci lasciò a bocca aperta per l'emozione che ci trasmise. Poiché però non disgiungeva mai la sua passione per il calcio dalla missione didattica, una settimana prima degli esercizi spirituali decise di unire le due cose. Propose alla classe una gara. Il terreno, un tema. L'oggetto, la mamma. Ognuno doveva descrivere cosa provasse per la propria. I 3 migliori componimenti sarebbero stati premiati con un'ulteriore fornitura di figurine. Io ancora non lo sapevo, ma stavo per affrontare il mio primo concorso letterario. Tutta la classe partì con impegno per l'ambito premio finale e soprattutto perché dovevamo parlare di nostra madre. Alcuni addirittura si emozionarono talmente nell'evocare la figura materna che non resistettero alle lacrime. Per parte mia non mi sottrassi al lagone, cercando nel mio scarno vocabolario le parole migliori per descrivere mia madre Edvige. Ogni tanto mordicchiavo la penna e mi guardavo in giro proprio come uno che stava in seconda fila e che non fece altro che guardare fuori dalla finestra per tutto il tempo che c'era stato concesso. Che non gli importasse nulla della mamma e delle figurine? Scaduto il tempo, consegnò come tutti noi. Dopodiché cominciò l'attesa del verdetto che giunse 2 giorni più tardi. Con una sapiente regia l'insegnante ci tenne a bagnomaria per un po', cominciando coi temi che meritavano una citazione, tra cui il mio, salendo poi, piano piano, verso il terzo, il secondo e infine il primo, che risultò essere, per la meraviglia di tutti, quello del soggetto che non aveva fatto altro che guardare fuori dalla finestra. Con rara capacità di sintesi, disse l'insegnante, aveva riassunto tutto ciò che una madre è per i suoi figli in una sola, unica, immortale parola. Mamma. E non c'era stato bisogno di aggiungere altro. Fu questo il mio primo concorso letterario perduto. Quella fu la mia prima, imprevedibile giuria. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Vitali, La mia prima sconfitta a un premio, da Libero del 22 marzo. Mentre gli innumerevoli film sulle stragi naziste ottengono sempre grandi consensi di pubblico e critica, i pochi film sugli eccidi compiuti dai sovietici passano quasi inosservati. Magari fosse solo censura quella che ha colpito in Italia Andrei Vaida. E che consolazione sarebbe se la circolazione semiclandestina del film sull'eccidio sovietico di Katyn fosse solo il frutto di una deliberata manovra di oscuramento per non far conoscere al grande pubblico uno dei più disgustosi crimini del comunismo. Purtroppo ha ragione Michele Anselmi, che ne ha scritto sul Giornale. Il censore è il mercato. Il film è stato distribuito in poche copie, ma ha incassato ancor meno, con una malinconica media a copia di 397 euro. A meno che non si voglia rimediare con un pedagogico trasferimento coatto di spettatori recalcitranti, bisogna concluderne che i distributori, certo ingenerosi, avevano tuttavia previsto lucidamente qualcosa di ben peggiore della censura. Le pagine più buie del comunismo, anche se affidate a un grande regista, non emozionano il grande pubblico, non suscitano partecipate indignazione, non accendono le passioni e l'immaginazione delle vaste platee. È una conclusione amara e sconsolata, ma vera. Il massacro stalinista degli oltre 20.000 ufficiali polacchi a Katyn non è quantitativamente il più efferato delle carneficine prodotte dal comunismo, ma fu, come ha scritto in pagine memorabili Viktor Zavzlaski, il laboratorio di una pulizia di classe. Lo sterminio, attuato negli anni dalla fattiva collaborazione tra Hitler e Stalin, di intere categorie soppresse non per qualche eventuale colpa soggettivamente commessa, ma perché colpevoli semplicemente di esistere e di rappresentare un oggettivo intralcio all'edificazione tragica dell'ordine nuovo. Risulta forse un fremito risarcitorio nei confronti delle vittime, un sentimento lontanamente paragonabile al turbamento che agiti le coscienze di chi fu idealmente dalla parte dei carnefici e ne condivise il nome, i simboli, la storia, le finalità ultime? Non risulta. Anzi, di recente l'ex comunista Luciano Violante, dopo aver onestamente confessato il proprio imbarazzo durante la proiezione di un documentario sulle foibe attuate da chi si fregiava dello stesso nome comunista del partito in cui ha militato, si è molto offeso quando il Riformista ha sintetizzato nel titolo con la parola «vergogna» il contenuto dell'articolo. Perché la vergogna non è un termine nobile quando ci si turba per aver condiviso il nome e gli ideali dei carnefici? A 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, del comunismo e delle decine e decine di milioni di vittime di cui è costellato il suo cammino, ovunque, sì, ovunque oppressivo e cruento, non importa granché a nessuno, tranne a chi è ancora capace, come i volenterosi polemisti di Avvenire e di Tempi, di non smarrire il ricordo di quelle mattanze. Si è imposta non per ordine censorio, ma per spontanea adesione a un luogo comune, l'idea secondo la quale, a comunismo morto, l'anticomunismo non è che ossessione minoritaria di passatisti risentiti e nostalgici della guerra fredda. Immaginate lo scalpore che susciterebbe l'idea secondo la quale, a fascismo morto, anche l'antifascismo fosse una patetica sopravvivenza del passato. Ma sul comunismo nessuno scalpore. Nel mondo della cultura, nel dibattito politico, al botteghino in cui l'anticomunismo fa mestamente flop. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Perché a nessuno interessa Katyn, dal Corriere della Sera del 23 marzo.